Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Smart City, questa sera cominciamo così, sentite. Pianificare il proprio tempo per una città vuol dire, diciamo, farsi carico di un'architettura di ritmi, di usi e degli spazi della città, dei suoi servizi, che è un monumento temporale, diciamo, che si è costruito lungamente attraverso la storia della città stessa, quindi significa affrontare una grande complessità di persone, di abitanti della città che la usano dalle più diverse scale, quella dei residenti ma anche quella dei cittadini temporanei, dei city users e così via. La voce era quella di Stefano Stabilini, intervistato da Attilia Cozzaglio. Stabilini è un architetto che lavora già da anni sulle politiche dei tempi, un aspetto che fin qui è stato sottovalutato della pianificazione territoriale e anche dei servizi, ma che adesso si è capito essere cruciale. Di che cosa stiamo parlando? Beh, insomma, è evidente per esempio che se la biblioteca è aperta solo negli orari in cui io lavoro, per me è come se questa non esistesse. E così, se i mezzi di trasporto sono assenti la sera tardi, ma io mi sposto proprio in quegli orari, per me il trasporto pubblico diventa del tutto inutile. Insomma, il concetto è chiaro: per rendere più fruibili i servizi è indispensabile tenere conto degli orari in modo più strutturato, soprattutto adesso che si lavora molte ore e che le attività quasi non cessano mai. Un primo tentativo di regolamentare, di inserire anche all'interno della pianificazione territoriale questo tema, questa dimensione temporale, come ci spiega Stabilini, lo sta facendo Bergamo. Ascoltiamo. Una delle città che si è mossa in modo più innovativo è stata la città di Bergamo, che si è dotata di un piano territoriale degli orari recentemente e che è stata capace anche di far entrare queste tematiche negli altri strumenti di governo della città, nel piano di governo del territorio e il piano di servizi che ne fa parte. Più di recente si è dotata anche di uno strumento per i cittadini, mi raccontavi. Sì, sempre sulla scia, diciamo, di queste iniziative. E la città di Bergamo si è dotata di uno strumento di gestione degli spazi pubblici utilizzati per eventi dei tipi più diversi, culturali, di intrattenimento, ma anche semplicemente lo spazio di una via che viene chiuso per lavori pubblici. Queste iniziative, diciamo, possono essere proposte dai cittadini attraverso uno sportello telematico che è la web che la città ha realizzato, e un unico strumento integrato gestisce tutto il percorso di valutazione delle richieste di uso dello spazio pubblico e fino alla sua autorizzazione. Eh già, perché politica dei tempi non è solo tenere aperti più a lungo magari gli uffici tecnici del comune, ma è anche snellire il più possibile gli iter decisionali, limitando al minimo la necessità di spostarsi per interfacciarsi con l'amministrazione pubblica. È politica dei tempi, sempre come hanno fatto a Bergamo, mantenere aperto più a lungo un parco cittadino perché i pendolari possano attraversarlo, quelli che arrivano un po' più tardi la sera al ritorno dal lavoro, anziché essere costretti a girarci intorno per andare a casa. E così tanti cittadini hanno guadagnato 10 minuti di tempo della loro vita. Ma è politica dei tempi anche portare un ufficio del comune all'interno di una fabbrica dove lavorano tanti compaesani, o all'interno di un aeroporto. Iniziativa questa del comune di Orio al Serio, che ha aperto un ufficio anagrafe in aeroporto che fa gli stessi orari dell'aeroporto e dove si possono rinnovare rapidamente le carte d'identità non solo degli abitanti di Orio al Serio, ma di tutti i cittadini italiani e persino degli altri cittadini europei. Il comune infatti si era trovato a un certo punto l'ufficio anagrafe costantemente intasato da viaggiatori un po' distratti che avevano realizzato solo una volta arrivati in aeroporto che la carta d'identità era scaduta. Tutte iniziative di cui vi parleremo. D'altra parte, una piccola rivoluzione dei tempi l'ha appena fatta l'attuale governo con la liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi. Che tipo di riflessi ciò potrebbe avere sui tempi della città? Attilia Cozzaglio lo ha chiesto ad un altro architetto che si occupa di programmazione dei tempi, Roberto Zedda. Sentite. Intanto è come dire, il togliere un vincolo, che era un vincolo di calendario, di cui bisogna, prima di vederne gli aspetti negativi, capire quali possono essere gli aspetti positivi. Pertanto si tratta di fare azioni di progetto rispetto a questo, di progetti che sono poi locali, perché gli orari sono, come dire, localizzati, in quanto i negozi sono localizzati. Questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto è potrebbe mettere in moto, come dire, delle dinamiche che sono attualmente non note. Faccio un esempio per capirci. Se io ho un negozio di abbigliamento vicino ad una discoteca, gli orari del mio negozio attualmente non possono essere, come dire, coerenti con gli orari della discoteca. Viceversa, adesso potrei organizzare gli orari del mio negozio di abbigliamento vicino alla discoteca proprio per utilizzare questo pubblico della discoteca come mio cliente. Bene, questo qui è un aspetto che togliere il vincolo dell'orario metterebbe in evidenza. Questo è uno degli aspetti. L'altra cosa è, c'è da capire come la città si va a organizzare, come si modifica l'organizzazione di questa città a partire dal disegno che questa liberalizzazione di orari fa quartiere per quartiere, strada per strada. In certe strade potrebbero esserci orari differenti in altre strade, e questo potrebbe dare una movimentazione sul territorio che bisogna un po', come dire, capire e cercare di in qualche misura gestire. Per il momento ci fermiamo qui, ma questa dimensione della programmazione temporale, per così dire, delle attività di tutti noi ha un grande potenziale, è anche un tema estremamente affascinante. Ci torneremo presto con alcuni dei casi che vi abbiamo anticipato e anche con un po' di novità. Per ora è tutto, buona serata.